Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buongiorno, benvenuti a Salva Danaio da Deborah Rosciani. Oggi torniamo ad occuparci di un tema molto caro, si fa per dire, agli ascoltatori del nostro programma. Parliamo di fisco, lo facciamo in un'occasione particolare, quella dell'edizione 2012 di Telefisco, che si svolge proprio oggi, il convegno annuale organizzato dal Sole 24 Ore che affronta le novità fiscali di quest'anno, che si tiene in 72 città collegate via satellite, raccogliendo decine di migliaia di operatori in tutta Italia. E mai come quest'anno, probabilmente, Telefisco ha potuto trovare sul tavolo tante novità, quelle della nuova legge di stabilità naturalmente, ma anche tutti gli altri provvedimenti dello scorso anno, un anno che ricorderemo per ben 5 manovre. Il convegno è iniziato stamane, sta facendo il punto sulla complessa situazione fiscale italiana. Gli esperti del Sole 24 Ore e i dirigenti dell'Agenzia delle Entrate stanno rispondendo in diretta ai quesiti su fiscalità degli immobili, capitali all'estero, attività scudate, ma si parla anche di redditi di impresa, senza dimenticare i nuovi strumenti per controlli, accertamento e riscossione. Telefisco 2012 anche su internet, all'indirizzo www.ilsole24ore.com/telefisco è online una sezione dedicata al convegno che si può seguire acquistando il pacchetto al costo di 16,90 euro, e questa modalità consente di seguire i lavori in diretta streaming video sulle proprie PC e consultare online nelle dispense digitali di Telefisco appunto 2012, oltre che rivedere la registrazione in qualunque momento. Una manifestazione che stiamo seguendo anche noi di Radio 24 con il Radio Day Telefisco. I GR delle 13, delle 17 e delle 19 offriranno, come hanno già fatto quelli della mattina, un quadro di quanto sta emergendo nel corso del convegno. Molte delle novità fiscali degli ultimi mesi hanno riguardato la casa, pertanto noi abbiamo scelto proprio questo tema sul quale concentrarci stamattina a Salva Danaio. I bonus fiscali previsti per la riqualificazione energetica e la ristrutturazione degli immobili, la detrazione famosa del 36% che è diventata ormai a regime, mentre quella del 55% che rischiava di sparire lo scorso anno ha guadagnato un'altra annualità. Appunto, oggi noi torniamo a spiegare il funzionamento di queste due modalità fiscali, appunto, per poter avere uno sconto se si decide di rimettere a nuovo l'abitazione, alla luce anche delle novità che sono arrivate negli ultimi periodi. Cristiano Dell'Oste, Il Sole 24 Ore, bentornato, buongiorno. Buongiorno Deborah. Reduce da Telefisco, che si sta tenendo proprio a due passi dalla sede del Sole 24 Ore. Poi vi racconteremo anche che cosa è emerso questa mattina, visto che è intervenuto il numero uno appunto dell'Agenzia delle Entrate, Attilio Befera. E naturalmente, per parlare della casa, abbiamo interpellato il nostro esperto preferito, Luca De Stefani del Sole 24 Ore, dottore commercialista esperto di queste questioni, che sta presidiando la sede di Padova dell'Ordine dei Commercialisti e da dove si stanno seguendo i lavori di Telefisco. Dottor De Stefani, buongiorno. Buongiorno a tutti. Ci sente bene? Noi anche noi la sentiamo abbastanza bene. Sono catturati? Qual è il grado di attenzione che i suoi colleghi stanno manifestando per la manifestazione di oggi? Quali sono i temi che stanno suscitando anche le vostre più grandi curiosità come professionisti, dottor De Stefani? Ma e qui siamo in mille all'incirca a seguire il convegno annuale via satellite che il suo direttore fa. E il tema più importante quest'anno è il nuovo regime di minimi, la possibilità quindi di poter tassare il proprio reddito di impresa con una tassazione del 5%. E quindi questo nuovo regime parte da quest'anno, è un'agevolazione per i giovani perché per le nuove attività. Questo regime infatti può durare per i primi 5 anni di attività. Benissimo, allora visto che ci ha sollevato questa questione ce ne occuperemo anche noi di Salva Danaio prossimamente. Il tema della casa invece è in secondo, terzo posto? No, la fiscalità sull'abitazione. Il tema della casa, anche sono molti i quesiti che stanno arrivando sia in sala sia nel sito internet del Sole 24 Ore. Grazie, adesso la interpelleremo invece sul tema che abbiamo scelto questa mattina per Salva Danaio. Volevo chiedere invece a Cristiano Dell'Oste che cosa è successo questa mattina nella sede di Via Silva, appunto. Adesso non sto a spiegare agli ascoltatori in Italia dove esattamente si stanno tenendo i lavori di Telefisco, che comunque sono lavori che si possono seguire online. Befera, il presidente dell'Ordine dei Commercialisti Sicilioti, so che c'è stata anche una bella discussione animata tra di loro, sicuramente costruttiva ed interessante. Su quali temi avete fatto il punto oggi? Ma diciamo che Telefisco, come tutti gli anni, è strutturato con una serie di 12 relazioni da parte dei 12 esperti, e poi c'è un momento introduttivo in cui di solito si incontrano, come appunto è capitato quest'anno, un esponente dell'amministrazione, il ministro, oppure come quest'anno il direttore delle entrate e i commercialisti. E il tema forte, questo è l'anno delle 5 manovre, si è detto che penso sia un unico nella storia d'Italia, il tema forte, giustamente posto dai commercialisti, è quello degli adempimenti, adempimenti che sono insomma pesanti da un certo punto di vista, ma dal punto di vista dell'amministrazione finanziaria sono utili a contrastare l'evasione, a raccogliere una serie di dati importanti. Gli ultimi in ordine di tempo, abbiamo visto lo spesometro con tutte le comunicazioni che si porta dietro, e poi il redditometro, sul quale Befera ha comunque sottolineato è fondamentale la collaborazione dei commercialisti e delle categorie, che infatti lo stanno testando proprio in questa fase, mentre appunto si cerca di mettere a punto lo strumento definitivo. E poi c'è già una prossima scadenza, perché noi abbiamo detto 5 manovre, ma in realtà venerdì il Consiglio dei Ministri esaminerà il decreto sulle semplificazioni, e proprio da qui potrebbe arrivare qualche alleggerimento per la parte degli adempimenti anche sul fronte fiscale. Una compensazione, insomma, che magari farebbe comodo ai commercialisti. Cristiano, Telefisco si tiene proprio nelle giornate in cui su tutti i giornali sono campeggiate le notizie. Prima il blitz di Cortina, ma in questi giorni proprio c'è stata grande enfasi sulla questione del numero degli evasori totali che sono stati scovati dalla Guardia di Finanza. Certo. Allora perché parlo di questo? Perché in realtà anche quando parliamo dei bonus per la casa ci sono delle relazioni abbastanza dirette anche fra le due questioni. Questi bonus sono stati introdotti in qualche maniera qualche anno fa sia per riqualificare il patrimonio edilizio certo. del nostro paese, ma anche per tirare fuori dal nero tutto ciò che gravitava insomma intorno a questo mondo. Certo, diciamo che c'è stata nei mesi scorsi una commissione che ha classificato tutte le agevolazioni fiscali esistenti in Italia, guidata da Vieri Ceriani, che poi adesso è diventato sottosegretario al Ministero dell'Economia e delle Finanze, e una delle ragioni, degli obiettivi strutturali del 36 e del 55% è stata proprio quella, l'hanno riconosciuto anche loro, di favorire l'emersione della base imponibile, cioè di indurre, con la prospettiva di ottenere uno sconto o meglio un rimborso fiscale sotto forma di detrazione, di indurre i proprietari a farsi fare la fattura dai soggetti che gli ristrutturano casa, gli cambiano le finestre, gli cambiano la caldaia, e nel contempo poi anche, giustamente come tu dicevi, di favorire una riqualificazione del patrimonio edilizio. Allora, 5 manovre lo scorso anno, dottor De Stefani, visto che è stato tanto bravo anche prima dell'inizio della trasmissione di mandarmi un bellissimo prospetto che riassumeva racconto tutti i retroscena che capitano a noi, che ci capitano appunto anche ai nostri ascoltatori, questo specchietto, questa sintesi dove mi ha delineato, mi ha indicato tutti i cambiamenti più importanti che sono arrivati lo scorso anno relativi proprio ai bonus fiscali per la ristrutturazione, per la riqualificazione energetica delle case. Siamo partiti dal maggio dello scorso anno, quindi ben prima che arrivasse Monti con le misure Salva Italia e Cresci Italia. Da maggio scorso, per esempio, che cosa è successo per i lavori di riedificazione, appunto per i lavori di ristrutturazione? Sì, per quelli di ristrutturazione edilizia detraibile al 36% c'è stata l'eliminazione della comunicazione preventiva da fare all'Agenzia delle Entrate e precisamente al centro operativo di Pescara. Quindi per tutti i lavori che sono iniziati dopo il 14 maggio 2011 questo adempimento non è più necessario ed è stato sostituito con l'obbligo di indicare in dichiarazione dei redditi i dati catastali dell'immobile dove si sta effettuando la ristrutturazione appunto. Sempre dal 14 maggio un'altra novità è l'eliminazione dell'obbligo di indicare in fattura il costo della manodopera. Questo era un obbligo che era in capo all'impresa costruttrice e di ristrutturazione, che se non veniva assolto da parte di questi soggetti comportava la decadenza del beneficio fiscale. Altro intervento è stato quello che è stato effettuato il 6 luglio del 2011, qui ancora misure che portano la firma dell'ex ministro Tremonti, è stata ridotta dal 10% al 4% la ritenuta da conto sui bonifici, perché ricordiamo che naturalmente questi incentivi si possono ottenere solo se tutti i lavori vengono regolarmente pagati a chi ce li fa con bonifico bancario. Dottor De Stefani. Sì, quando a fare la ristrutturazione è un soggetto privato, in questo caso c'è l'obbligo del bonifico bancario. Questo capita quasi sempre nel 36% e per quanto riguarda il 55% capita solo quando il beneficiario è un privato, non quando quindi i lavori li fa un'impresa, ad esempio su un immobile che possiede e conduce. Quindi la ritenuta al conto, obbligatoria già da un anno e mezzo, doveva essere applicata da parte delle banche al bonifico che il soggetto che stava ristrutturando l'immobile faceva all'impresa costruttrice. Questa ritenuta al conto andava quindi a diminuire l'importo netto che veniva percepito dall'impresa costruttrice del 10%. Dal 10% questa percentuale è stata applicata dal 1 luglio 2010 fino al 5 luglio 2011, mentre dal 6 luglio 2011 è stata ridotta al 4%. Dal 1 gennaio di quest'anno, qui ricoinvolgo Cristiano Dell'Oste, invece praticamente questa detrazione del 36% sui lavori di manutenzione straordinaria dell'immobile diventano a regime, quindi significa che nessun'altra manovra potrà cancellare questo incentivo fiscale, Cristiano? Allora, significa che di fatto da quando era stato istituito, parliamo del 1998, il 36% era sempre stato prorogato di volta in volta. Del regime di proroga. Esatto, anche se di fatto ormai sono, questo è 13 anni che si applica nel nostro sistema. Quindi era, come dire, già consolidata, esatto, nei fatti. Adesso invece il decreto Salva Italia lo inserisce all'interno del testo unico delle imposte sui redditi, quello che i commercialisti chiamano per semplicità il TUIR, e gli crea un articolo apposito, dedicato, che appunto va a disciplinare il nuovo 36%, è l'articolo 16 bis. Chiaramente stiamo parlando però di una legge, quindi non è detto che in futuro non si decida di cancellarlo, però il fatto che sia stato inserito nel testo unico dei redditi e il fatto che non servano più altre proroghe significa che ha una stabilità maggiore. Non dimentichiamoci che prima che intervenisse il Salva Italia il 36% era in scadenza al 31 dicembre, certo, del 2012. Quindi c'era chi si doveva sbrigare a fare i lavori perché temeva che chiaramente l'incentivo potesse essere cancellato, un po' come è successo per la questione del 55%, esatto, che è, esatto, stato incerto lo scorso anno. Che per è stato incerto, che... è quest'anno al suo sesto anno di applicazione, ma che di fatto è stato prorogato gli ultimi due anni, in entrambi i casi di 12 mesi in 12 mesi, quindi con una battaglia da parte delle imprese, con grande incertezza. Si tratta di incentivo più corposo anche per, in termini di onere naturalmente per lo Stato, per cui è chiaro che forse anche per questo motivo lo Stato ogni volta ci pensa se prorogarlo o meno. Detto questo, io non ho ricordato una cosa importante, che gli ascoltatori possono intervenire come tutte le mattine in diretta chiamandoci all'800 24 00 24, anche questa una prassi consolidata, ma che se la ricordo non fa mai male. Ci potete scrivere al 349-238-6666 all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Da qualche tempo potete animare anche la nostra conversazione su Facebook all'indirizzo salvadanaio-radio24, e ci sono anche su Facebook, vedo già molte domande da parte di molti ascoltatori. Ci ritrovati in diretta, ancora buongiorno da Deborah Rosciani. Questa mattina Salva Danaio fa un blitz in una manifestazione storica delle Sole 24 Ore, che è Telefisco, e sono tutte le novità fiscali che vengono presentate alla platea dei professionisti e dei commercialisti italiani, ma non solo, anche a tutti coloro che vorranno seguire su internet questa manifestazione collegandosi al sito www.ilsole24ore.com/telefisco. C'è una sezione dedicata al convegno, che però deve essere acquistata, ma il costo è anche abbastanza moderato rispetto a tutta la giornata di lavori. Il Sole 24 Ore mette a disposizione un gruppo di professionisti che spiegano tutte le novità fiscali, e come sapete negli ultimi mesi ne sono arrivate davvero una marea, complessivamente 5 manovre che hanno interessato non solo i professionisti ma anche e soprattutto, Cristiano Dell'Oste, i contribuenti italiani. E certo, sono i professionisti che hanno molti adempimenti ma anche molti contribuenti che devono ottemperare e rispettarli. Allora, noi stamattina abbiamo estrapolato un argomento da Telefisco, i bonus casa, i cambiamenti che arriveranno per chi vuole riqualificare la propria abitazione, per chi vuole ristrutturarla. Come sapete, negli ultimi anni i contribuenti italiani hanno beneficiato e sono stati tanti della detrazione del 36% per la ristrutturazione, diciamo, di tipo straordinario e del 55% per la riqualificazione energetica della casa. Stanno cambiando un po' di cose, allora noi stamattina ne parliamo con Cristiano Dell'Oste, collega del Sole, con Luca De Stefani, esperto in materia fiscale per il Sole 24 Ore, che sta coordinando peraltro per Telefisco la sede dell'Ordine dei Commercialisti di Padova. Allora, prima di sentire i nostri ascoltatori, c'erano un altro paio di novità in arrivo che volevamo spiegare con Cristiano Dell'Oste. Dicevamo, prima abbiamo chiarito tutta la questione che il 36% sta diventando sostanzialmente ormai una misura a regime. Certo. Il 55% invece un po' più vacillante, di anno in anno il governo decide se prorogare o meno, ma dal 2013 praticamente una ingoiera l'altra? Quello che succede dovrebbe essere, che dico dovrebbe e poi spieghiamo perché, allora allo stato attuale fino alla fine del 2012, quindi per tutto quest'anno, c'è ancora la detrazione del 55% vecchia maniera, senza sostanziali cambiamenti nella disciplina e neanche nelle opere agevolate. Poi dal 1 gennaio del 2013 gli interventi di risparmio energetico che oggi hanno il 55% passeranno ad avere il 36%. Questo è il meccanismo che ha delineato il legislatore con la manovra Monti. Perché io ti ho detto dovrebbe? Perché ci sono due variabili importanti. Allora, la prima è che è quasi certo che nei prossimi mesi, di solito succede dopo l'estate, ma potrebbe succedere anche subito prima, partirà il pressing delle imprese del settore, dei settori agevolati dal 55% per chiedere il mantenimento inalterato, diciamo, e vedremo come andrà a finire della situazione. Esatto, e vedremo come andrà a finire. E poi però nel 2013 c'è una variabile in più che riguarderà sia il 36% che il 55% e che adesso è legata a un punto interrogativo, ma che sarà molto importante, perché nei prossimi mesi, con un decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, quindi senza bisogno di fare delle leggi, il governo dovrà ridisciplinare le regole dell'indicatore ISEE, quello che oggi viene usato ad esempio per gli asili nido, per tutta una serie di prestazioni dei comuni, ma non solo dei comuni, anche per la social card a livello nazionale. Una fotografia della situazione reddituale e patrimoniale della famiglia, insomma. Esatto. E un determinato livello ISEE, che il governo dovrà stabilire quale sarà, servirà per ottenere anche una serie di agevolazioni fiscali. Noi non abbiamo la certezza che il 36 e il 55% cadano sotto questa misura. Esatto, però, ma è probabile che succeda, perché sono comunque delle classiche misure in qualche modo finalizzate alla spesa, e quindi chi è molto ricco, diciamolo in modo banale, potrebbe essere escluso da queste detrazioni. Ecco, De Stefani, che ne pensa se dovesse arrivare questa novità? Complicherebbe, a parte la vita, ai professionisti e anche ai contribuenti, in qualche maniera esonererebbe una fetta molto importante di contribuenti che potrebbero ottenere questo beneficio e non potrebbe ottenerlo più? Non so, mi dia un po' dal punto di vista professionale un'idea di questa. Sicuramente complicherà la compilazione della dichiarazione di redditi, perché oltre ad effettuare l'adempimento dovrà essere compilato l'ISEE, che è sempre in pieno di dati del contribuente, non sono solamente i redditi a reddito complessivo, ma nell'ISEE vecchia maniera sono indicati anche il patrimonio finanziario e immobiliare del nucleo familiare, quindi complicherà sicuramente il nostro lavoro. Speriamo che comunque il nuovo ISEE, quindi il nuovo indicatore della situazione economica equivalente, sarà semplificato e sarà semplice da compilare. Ecco, speriamo appunto che entro il 21 maggio deve essere approvato questo decreto e dovrà prevedere questa riforma dal 1 gennaio del 2013. Segniamoci, lo dico a Marco Lombardo, il mio collaboratore, le due puntate da fare: i contribuenti minimi, i regimi minimi e soprattutto appunto la rielaborazione dell'ISE. Allora, cominciamo a sentire i nostri ascoltatori. Sentiamo Mario da Messina. Mario, buongiorno, l'avevo già presentata, l'ho fatta anche aspettare un po', mi scusi, buona giornata. Eccoci a lei. Buongiorno a lei e ai suoi esperti, Deborah. Io volevo porvi il mio quesito. Praticamente, volendo approfittare della riqualificazione energetica, ho cambiato gli infissi a casa, sì, esterni chiaramente, e ho fatto i due bonifici, cioè un acconto nel 2010, mi pare novembre 2010, ho saldato tutto quanto a 2011 e ho saldato tutto quanto a gennaio del 2012. Mm-hmm. Fiscalmente adesso come mi devo comportare? Cioè queste detrazioni io le devo portare per il prossimo anno molto probabilmente. Mario, aspetti lì, sì, allora aspetti lì. Dunque, se io non mi ricordo male, però si può fare la suddivisione in due, forse la prima parte, l'acconto che ha già fatto, può portarle in detrazione già quest'anno, De Stefani? Sì, è corretto. Allora funziona il principio di cassa. E quindi essendo effettuato il primo acconto con bonifico bancario entro la fine del 2011, già con la dichiarazione che si presenta adesso qui a fine di maggio, se è un 730, o comunque a fine settembre se è un modello unico, si può iniziare a detrarre il 55% della spesa sostenuta lo scorso anno. Per quanto riguarda i saldi invece effettuati nel 2012, la detrazione inizierà con l'anno 2012, quindi con la dichiarazione da presentare il prossimo anno. Tra l'altro mi viene in mente, se la detrazione, adesso chiaramente qua siamo nell'ordine delle ipotesi, delle congetture, se fosse stata cancellata, Mario avrebbe beneficiato solo per la parte data in acconto, quindi? Sì. No, sì, vabbè, comunque è una cosa che non è successa per fortuna. Solamente la prima parte poteva essere agevolata. Ricordiamo il nostro contribuente che si trova in una situazione particolare in quanto ci sono i lavori a cavallo d'anno, ci sono un acconto in un anno, un saldo in un altro anno, e quindi deve inviare all'Agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione dove indica appunto questi due acconti, questi due pagamenti in anni diversi entro il 31 marzo quest'anno. Come mai c'è questo adempimento? Ne abbiamo già parlato in un'altra trasmissione De Stefani, ma come lei sa io mi scordo sempre di tutto. Per quale motivo, per i lavori a cavallo tra un anno ed un altro, occorre fare questa comunicazione all'Agenzia delle Entrate? Ma per far prenotare l'Agenzia delle Entrate le detrazioni di spesa più o meno, ecco, in quanto in questa maniera ha subito i primi dell'anno successivo il polso delle situazioni di quanti pagamenti sono stati effettuati. Okay, quindi è una cosa che serve all'Agenzia delle Entrate, quindi se un contribuente si dimentica di farla comunque rischia di non avere l'incentivo per la parte che va a saldo? È uscita una circolare su questo tema che ha detto che il mancato invio è sanzionato, quindi viene addirittura sanzione, però non si perde il beneficio fiscale. Ma non vorrei che la sanzione vanificasse il beneficio fiscale. Quant'è la sanzione? Per chi si... 250 euro. Però insomma, cioè, mi scoccerebbe pure doverle pagare solamente perché mi sono... Mario, quindi ha capito quello che abbiamo detto, faccia questa comunicazione all'Agenzia delle Entrate entro marzo, mi raccomando, gliel'aveva detto il professionista che segue i lavori? Sì, ero al corrente della cosa. Molto bene, grazie molte. Bene. Sì, Cristiano, arrivederci. Volevi aggiungere qualcosa, Cristiano? Sì, giusto per chiudere il cerchio, l'altro adempimento, questo vale per tutti, anche per quelli che non hanno lavori a cavallo d'anno, per i lavori agevolati dal 55%. È un adempimento precedente, prima della partenza dei lavori? No, da fare dopo. Entro 90 giorni dalla fine dei lavori va inviata poi la documentazione tecnica all'Enea. Questo è importante perché questa invece sì è appena di decadenza. È una cosa che di solito fa la ditta che installa gli infissi, nel caso degli infissi, ma altrimenti si può fare da soli o anche con l'aiuto di un professionista, di un tecnico. Però questa è importante perché è appena di decadenza. 90 giorni dalla fine dei lavori. Allora, andiamo a sentire adesso Luigi da Torino. Buongiorno Luigi. Sì, buongiorno, complimenti per la trasmissione. Per quanto riguarda l'agevolazione fiscale al 55% per le porte garage, c'è l'articolo 1,2, poi c'è anche scritto dopo la lettera C. Volevo sapere se in un garage che diciamo che è di pertinenza alla casa, non un garage isolato dalla casa, ma dal quale si può accedere all'interno della casa, può beneficiare del 55%. Grazie Luigi. Allora, la pertinenza, Cristiano. Dunque, io adesso bisognerebbe capire bene come è strutturata la casa, ma così sulla base di quello che ha detto l'ascoltatore tenderei a dire di no, perché se si tratta di un garage, praticamente la chiusura, la porta, diciamo, del garage non delimita un locale riscaldato. E quindi, dato che la detrazione del 55% serve ad agevolare interventi per l'efficientamento energetico ed è una detrazione che serve, diciamo, come dire, per migliorare le prestazioni termiche degli edifici, non avrebbe senso concederla se un locale appunto è privo di riscaldamento. Se però quest'opera rientra in una più generale intervento di ristrutturazione, di manutenzione straordinaria, e se il garage è pertinenza dell'abitazione, dovrebbe poter rientrare del 36%. Tra l'altro, ridiamo un attimo, Luca De Stefani, gli standard principali per poter ottenere appunto la detrazione del 36%. A quanto deve ammontare l'investimento massimo che posso effettuare appunto per riorganizzare la mia abitazione, appunto l'immobile, e qual è appunto il limite massimo di detrazione che si può ottenere? Sì, per il 36%, quindi per il regime, per l'agevolazione generica della ristrutturazione edilizia, il limite massimo di spesa è di 48.000 euro. Quindi, moltiplicando questo importo per il 36%, l'agevolazione massima è di 17.280 euro, e questa va ripartita in 10 anni. Mm-hmm. Ricordiamo che tutte le spese sostenute lo scorso anno potevano essere ripartite appunto in 10 anni dai soggetti in maniera generica, mentre per gli ultra 75 anni la ripartizione poteva essere fatta in 5 anni, mentre per chi aveva un'età non inferiore a 80 anni e la ripartizione era in 3 anni. Dal 2012 invece, con la nuova agevolazione, quel regime, sono stati eliminati queste due agevolazioni per i soggetti anziani, e quindi tutti i soggetti, indipendentemente dall'età che hanno, possono ripartire il bonus fiscale in 10 anni. Anche perché questo complicava un po' le cose per le questioni di capienza di reddito, no? Se non mi ricordo male. Sì, esatto, perché se il pensionato, supponiamo, di 85 anni ha un IRPEF che va a pagare normalmente con il modello CUT e poi magari nel suo 730 di 300 euro, e la detrazione è ripartita in 3 anni è di 800 euro, va a perdere la differenza. Ne perdeva 500, certo, e quindi in qualche maniera si è cercato un po' di adesso non mi viene il termine, comunque di rendere un po' più equa la situazione, diciamo così. Ci ritrovati in diretta, sì, ci stiamo un po' distraendo con Cristiano Dell'Oste, perché ci siamo collegati subito sul sito dell'Enea Efficienza Energetica, tutto sulle detrazioni fiscali del 55%, poi vi dirò per quale motivo. Nel frattempo andiamo a sentire Giovanni da Como. Giovanni, buona giornata. Buongiorno, grazie per avermi richiamato. Grazie a lei. Titolo: detrazione del 36%. Ho sentito parlare oggi per la prima volta di una ritenuta a conto che mi pare vada al 4%. Io ho fatto i pagamenti, io ho fatto una ristrutturazione, ho fatto una via, e ho fatto i pagamenti tramite bonifico online, Banca Intesa, che prevede i codici fiscali o le partite IVE dei beneficiari. Di ritenuta da conto non c'è scritto niente. Forse perché lui non la vede, Giovanni da Como, giusto? Aspetti lì, Giovanni, Cristiano, sì. Dell'Oste. Sì, sì, esattamente così. La ritenuta viene fatta dalla banca. Il cliente non si accorge di nulla, l'impresa edile che ha eseguito i lavori si vede accreditata una somma che è inferiore a quella pagata dal cliente, perché appunto la ritenuta opera per l'impresa, diciamo così, semplificando, così ci facciamo capire, come un acconto delle imposte che dovrà come pagare. Come sostituto d'imposta la banca, diciamo, svolge questa funzione in questo frangente. No, questo è un dubbio che, quando è sorta la ritenuta, moltissimi cittadini, moltissimi proprietari di case si erano posti, dicevano: ma devo fare io la ritenuta, come faccio? No, è una cosa che fa in automatico la banca. Per l'impresa è un pochino meglio vedersi fare una ritenuta del 4 anziché del 10%. Ecco. Allora, benissimo. Maurizio da Genova, buongiorno. Maurizio? Sì, eccoci, sì, pronto, qua. Dove era finito? Eccoci qua, ci racconti tu. Volevo dire, sì, siccome devo fare, ho intenzione di ristrutturare il tetto di casa e ci sono delle piastrelle di etamete di amianto, volevo sapere se c'è anche qui un'agevolazione. Perché le rimuove, Maurizio, e quindi riqualifica dal punto di vista ambientale anche. Grazie. In più avrei intenzione di rifare praticamente tutto il tetto. se tutto questo rientra nel 55 o nel 36%. Grazie Maurizio. Allora, primo lavoro da fare è capire intanto quanto beneficio energetico registra l'abitazione nel momento in cui si decide di rifare il tetto, quindi lì ci sarà bisogno di tutta l'asseverazione preventiva, Cristiano Dell'Oste, da parte di un tecnico, oppure vuoi rispondere sull'amianto, qual è il tema che ti piace di più? No, diciamo che allora, tanto per cominciare, il rifacimento del tetto è un intervento a manutenzione straordinaria, quindi diciamo in linea di principio, quindi agevolato al 36%. Peraltro il 36% in quanto tale, anche se non si rifacesse tutto il tetto, può essere richiesto quando si va a rimuovere le coperture in Eternit o cemento amianto, quindi diciamo il 36% in questo caso non è in dubbio, dovrebbe essere, cioè siamo sicuri. Per quanto riguarda il 55%, che pure potrebbe esserci, bisogna invece andare a vedere se si raggiungono i requisiti di trasmittanza, quindi la trasmittanza è diciamo la permeabilità al calore di un materiale, adesso se mi sente qualche ingegnere ci bacchetterà, però è per farlo capire, ecco, se si raggiungono i requisiti richiesti dalla normativa, allora si può avere addirittura il 55%, perché tra i vari lavori agevolati il 55% viene fatto soprattutto per gli infissi, circa metà dei lavori sono sostituzione di infissi, ma può premiare anche la coibentazione sia delle pareti che delle coperture, quindi dei tetti, il cambio delle caldaie e l'installazione di pannelli solari, quindi mm-hmm. bisogna andare a vedere con un tecnico se in caso di questi lavori si raggiunge il requisito richiesto, e nel caso l'asseverazione la si farebbe eventualmente dopo, quindi il nostro ascoltatore può anche rivolgersi a un tecnico preparato nel campo energetico e valutare se vale la pena di fare un intervento che centri determinati requisiti, dipende un po' dalle condizioni dell'immobile. Cristiano, allora svelo il mistero per cui abbiamo aperto il sito dell'Enea, perché un ascoltatore appunto ci ha scritto al 349-238-6666 che per gli infissi a lui non risulterebbe più necessaria la trasmissione all'Enea di tutta la documentazione della conclusione dei lavori, appunto per poter ottenere l'incentivo del 55%. Apro il sito dell'Enea, questo sito è dedicato all'efficienza energetica degli immobili, in particolare gli incentivi del 55%. Si ricorda a tutti gli utenti che la documentazione per fruire della detrazione 55 deve essere inviata telematicamente cliccando sull'icona nella cassetta postale qui sopra. Sto cercando appunto anche il tema dell'infisso, che non riesco a trovare al volo, ma per quello che sappiamo, Cristiano, non deve essere ancora inviata la documentazione. Sì, forse l'ascoltatore si riferiva o magari aveva sentito che per quanto riguarda gli infissi un paio d'anni fa c'è stata una semplificazione, tant'è che è una delle pratiche che il privato può eseguire da solo, collegandosi appunto al sito dell'Enea, dedicato all'efficienza energetica, se ha la certificazione dei nuovi infissi da parte del costruttore, quindi basta avere sostanzialmente la scheda e si può compilare da soli l'allegato e inviarlo poi telematicamente, ma l'invio va fatto, insomma, anche perché altrimenti non ci sarebbe più traccia della documentazione. De Stefani vuole suffragare le nostre convinzioni? Certo, confermo tutto quello che ha detto Cristiano, e ricordo che l'ascoltatore probabilmente fa confusione con la certificazione energetica, certificato di qualificazione energetica. Mm-hmm. Questi due documenti che devono guidare indicati all'Enea non sono obbligatori, ma solo questi due documenti non sono obbligatori. Questo per le finestre, quindi gli infissi, per i pannelli solari e anche per la sostituzione delle caldaie a condensazione. Mentre per tutti quanti le agevolazioni del 55%, comunque la comunicazione Enea a consuntivo entro 90 giorni dalla fine dei lavori è obbligatoria. Allora, stavo intanto cercando anche di accontentare qualche ascoltatore che ci scrive sul profilo Facebook salvadanaio-radio24. Giuseppe ci aveva scritto questa mattina: installazione impianto antifurto in casa, per questa installazione vale la detrazione del 36%, Cristiano? Allora, il 36%, oltre a essere eseguibile, diciamo, per una serie di lavori di ristrutturazione, va a premiare anche una serie di interventi, quali quelli, la norma usa un'espressione un po' involuta, ma diciamo sostanzialmente per la sicurezza, quindi ad esempio l'installazione di un antifurto in quanto tale è agevolata, potrebbe essere agevolata anche una porta blindata o le inferriate alle finestre e così via, ecco, quindi sì, la risposta è sì. Benissimo, quale documentazione devo conservare per un eventuale controllo? Dovrà conservare... Beh, qui c'è tutta una lista di documenti, insomma, ovviamente la fattura, le ricevute dei... Tutto quello che ci capita in mano, teniamo tutto, tanto non credo che ci pesi, non saranno dei documenti scritti sulla pietra, per cui sulla carta, penso che possiamo fare anche un plico e conservare tutte le spese che abbiamo sostenuto per questo investimento. Ce la facciamo a sentire un altro ascoltatore, Vittorio da Roma, in 2 nanosecondi, grazie. Un nanosecondo, sì. Faccio un contratto con un artigiano, mi porta la lista delle spese, approvo il preventivo, esegue tutto, faccio 5 bonifici, lui si dimentica di comunicare a Pescara che mi ha fatto i lavori, perdo le detrazioni, cosa posso fare? Ecco, De Stefani, mi dica un po' che cosa, oltre a prenderlo a randellate in testa? No, allora se i lavori sono iniziati dopo il 14 maggio 2011 non c'era nessun obbligo di comunicare a Pescara. Ma se ci ha raccontato l'episodio mi sa che tutto questo è successo un po' prima. Vittorio, prima, ecco, gli chieda di farsi fare altri lavori gratis in casa, così impara un'altra volta a comportarsi un po' più correttamente. Vabbè, però le dimenticanze ci stanno. Speriamo che abbia agito in buona fede. Grazie a Luca De Stefani, buon lavoro a Padova con Telefisco. Grazie, buona giornata. Grazie, Cristiano, anche a te, ritorni adesso negli studi televisivi a seguire il proseguo dei lavori. Sì, torniamo lì e quindi buona buon giornata. Buon lavoro anche a te, grazie. Grazie a Cristiano Dell'Ost, grazie a Marco Lombardo per la collaborazione in redazione, Fabio Cantadori in assistenza tecnica che oggi ancora è riuscito a non tagliarmi. Buona giornata a tutti, a domani.